Investire informati. Allora, tantissimi messaggi questa mattina, devo dire che oggi hanno voglia di parlare di mercati finanziari i nostri ascoltatori. Comincerò con il più bizzarro, di Osvaldo da Cuneo. Se oggi uno vincesse 5 milioni di euro alla lotteria, quale potrebbe essere una saggia allocazione finanziaria, visto che è tutto così caro? Mi soffermo su quest'ultima parte della frase, Alessandro Tentori. Intanto, ha ragione o non ha ragione l'ascoltatore? È tutto caro diventato? È tutto più caro rispetto all'anno scorso, sì. Ma in termini assoluti, se guardiamo i multipli dell'azionario, non siamo a livelli stratosferici o estremi. I tassi di interesse hanno ancora, soprattutto in Italia, hanno ancora del potenziale. Quindi sì, rispetto all'anno scorso è vero, però non è vero in termini assoluti. Ecco, ma il clima è sempre un po' difficile da decifrare, perché abbiamo avuto, adesso per carità, ci sono delle aspettative, addirittura c'erano aspettative di noia, come ci ricordava prima Debora, però abbiamo avuto già diversi, in questi primi neanche due mesi dell'anno, diversi cosiddetti cigni neri. Mi riferisco prima alle tensioni geopolitiche, poi c'è stato un ulteriore surriscaldamento delle questioni dei dazi e poi finalmente abbiamo, come dire, concluso in bellezza il trittico col coronavirus, che sta provocando diversi danni anche economici, non bastassero appunto gli impatti emotivi e quelli sanitari. E questo, nonostante questo però, i mercati, lo ricordava prima Debora, sono sostanzialmente indifferenti, anzi continuano a crescere. È corretto, è una valutazione corretta? Guardano oltre tutti questi temi e ritengono che tutto andrà bene? I mercati sono abituati ormai al doping delle banche centrali, la famosa Greenspan put, no? Qualsiasi cosa succeda arriva alla banca centrale, nel caso la Fed al tempo era Alan Greenspan, adesso chiaramente è cambiato. Però praticamente ormai è rivoltato il guanto, quindi una news negativa, che può essere il coronavirus, che può essere una guerra, diventa una news positiva per i mercati, perché arriverà più stimolo dalle banche centrali, più stimolo fiscale dai vari ministeri delle finanze. E questo però genera un po' di alterazione nella nostra percezione di come vanno i mercati finanziari, perché se non c'è più niente di solido a cui dobbiamo guardare, perché tanto le banche centrali, come dire, tamponano sempre tutti i problemi, anche questo non è però poi un approccio, come dire, che in maniera intelligente va trasferito al risparmiatore, che invitiamo sempre a fare delle scelte di investimento perché deve guardare ai propri bisogni e alle proprie necessità, e poi però attorno c'è sempre l'ancora di salvataggio che un po' però droga il mercato. Intanto il risparmiatore dovrebbe sempre avere un'allocazione molto diversificata, quindi mai mettere tutti i risparmi in un solo investimento. Questo chiaramente aiuta a prevenire situazioni di bolla e di scoppio di queste bolle. Poi però farei anche notare che le banche centrali possono smussare gli angoli del ciclo economico. Le banche centrali però non possono influenzare il ciclo economico, perché la politica monetaria ha per definizione un effetto di medio termine, mentre invece stiamo parlando del lungo periodo, qua, dei fondamentali. E quindi se effettivamente dovesse rallentare il ciclo economico, e ci sono già indicazioni sia negli Stati Uniti come in Europa, basti guardare alla produzione industriale in Germania, basti guardare ai job openings, l'apertura di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti, la banca centrale potrebbe prenderne atto, smussare la velocità di rallentamento forse dell'economia, però non potrebbe prevenire la recessione. Voi in casa AXA avete fatto una previsione su quanto peserà su questo trimestre il coronavirus in termini economici sulla Cina e a livello globale? Ma siamo abbastanza d'accordo con alcune stime che circolano, cioè che il primo trimestre della Cina verrà rivisto al ribasso di circa un punto percentuale, però rispetto a quello che è l'esperienza del 2002 dell'epidemia SARS, faccio notare che la Cina ormai è molto più integrata sia a livello economico che a livello finanziario nei mercati globali. E questo la proteggerà? Ma più che altro non proteggerà gli altri paesi, ecco, da un effetto negativo, da uno shock negativo, sia di domanda che di offerta derivante dalla Cina. Tra l'altro volevo così quasi chiosare tutto questo ragionamento in attesa di aggiornarci sull'andamento dei mercati finanziari, che comunque anche oggi, insomma, pur con segni alternati, Debora, non mi sembrano così né subire particolari contraccolpi negativi. Sempre peraltro per effetto della banca centrale, questa volta quella cinese. Stamattina gli operatori pare che commentino, visto che da là stanno arrivando delle azioni di sostegno all'economia da parte della banca centrale, che ha ridotto di nuovo i tassi di interesse, quindi rimarchiamo ancora il ragionamento fatto fino a a questo momento, ecco che i mercati stamattina sono un po' negativi, ma senza particolare brutalità, ecco. Mentre invece, come ricorderete, ad esempio il PIL italiano 2019 ha chiuso il 2019 con un più 0,2%, non infatti, esattamente, insomma, i fuochi d'artificio. E la Commissione Europea, tra l'altro, continua ad osservarci con grande preoccupazione. Due di denari. E non ha lunedì nero, non conosce default. Strano, la cliente avrebbe potuto contestare che lei è da sola, ma anche le tende sono da sole. Ciao. Buongiorno, vi chiamo in diretta da Bangkok che vi sto ascoltando. E volevo sapere dal vostro esperto di investimenti, investire nelle materie prime conviene? Ci sono dei rischi? C'è qualcosa che non funziona? Grazie, Livio da Bangkok. Grandissimo Livio da Bangkok. Ah sì, no, mi pareva un altro WhatsApp, sì, insomma, qua la canzone ci interferisce sul nostro parlato. Eh no, allora. Ha tutto un senso recondito, ma facciamo cominciare a rispondere Alessandro Tentori, materie prime. Oro a $1,600 l'oncia intanto in questi giorni per effetto di questo nervosismo sul mercato, però consideriamo che il mondo delle materie prime è veramente vastissimo, quindi dipende che cosa intenda anche l'ascoltatore, su quali segmenti va guardando. Un attimo, allora, qua abbiamo il microfono. Storicamente le materie prime sono il pane quotidiano degli investitori, diciamo, hedge fund, no? Quindi da lì è nata tutta l'industria dei grandi investitori. Materie prime però intese come future sulle materie prime, quindi titoli finanziari legati all'andamento del costo delle materie prime. Esatto. Quindi sono perché titoli, non... diciamolo subito, che difficili da maneggiare, anzi quasi impossibili da maneggiare per un risparmiatore qualsiasi. Il risparmiatore, chiamiamolo privato, sì, ha a disposizione ovviamente dei gestori che propongono strumenti che sono legati all'andamento delle materie prime. Alternativamente, vista la correlazione tra le materie prime e l'inflazione, si può investire in fondi che investono in inflazione, in prodotti legati all'inflazione. Ma ci sono anche fondi, vabbè, ci sono anche gli ETC, che sono gli ETF che investono sulle materie prime, quindi diciamo uno strumento in qualche maniera anche che può diversificare esiste, così come ci sono anche fondi di investimento attivi che magari possono investire in società minerarie e quindi in società che lavorano nel comparto. Alternative, diciamo, ce ne sono rispetto all'investimento diretto delle future sul Brent, che direi non è il caso. Questa qui tu l'hai letta, secondo me, su Risparmiare è facile se sai come fare, perché c'è un ricco paragrafo proprio sugli investimenti in materie prime e anche l'utilizzo di derivati. Però in quel paragrafo, mi ricordo bene perché sì, l'avevo poi letto con attenzione, in questo paragrafo si dice anche meglio affidarsi al gestore o al, sì, prodotto, appunto, che come hai citato adesso, l'ETC. Non fate cose direttamente, non cascate soprattutto in qualche tranello, corallo, in qualche serpente corallo che magari incontrate su Facebook, che vi dice investire in materie prime vi daremo milioni e milioni di interessi nel primo mese, nelle prime settimane, insomma, no? Questo è molto ricorrente, vero Tentori? Sì, sì, capitano sempre queste cose, soprattutto in ambiti che sono un po' grigi, un po' scuri, no? Come alcuni settori delle materie prime che non sono perfettamente trasparenti. Allora, il mondo è globale, prima abbiamo parlato di Cina, ovviamente il riferimento agli Stati Uniti è abbastanza costante. Vorrei un commento rispetto a quello che succede in casa nostra, Tentori, perché la Commissione Europea nei giorni scorsi ha rivisto al ribasso le sue stime di crescita del PIL dell'intera Eurozona e naturalmente ha ancora una volta osservato con un po' di disappunto quello che succede nel nostro paese, anche in questo caso per quello che riguarda i prossimi anni, almeno il 2020, quest'anno e il prossimo, appunto, c'è stata una limatura della crescita del PIL italiano. Ci può dare qualche dettaglio in più rispetto alle evidenze più interessanti che sono emerse da questa rilevazione della Commissione Europea? Perché noi magari leggiamo, come dire, poi le sintesi che riportiamo noi come giornalisti anche sui giornali, ma come operatori che cosa avete letto di interessante in questo rapporto? Senza dare uno spin politico, no, si presta, però farei notare due cose. Una è che i dati, l'analisi, le stime della Commissione Europea non riflettono ancora la decelerazione che ci sarà nel primo trimestre di quest'anno, quindi è stato evidenziato il rischio, sì, però non è quantificato, forse non è neanche quantificabile nelle stime. In secondo luogo farei anche notare che mentre l'Italia, la crescita italiana è stata rivista al ribasso, anche se di poco, la crescita media dell'Eurozona invece è rimasta invariata, quindi si apre ancora di più questa forchetta, se vogliamo, alla quale siamo praticamente abituati nel post 2008 grande crisi finanziaria, dove quando l'Europa rallenta l'Italia rallenta di più. Vorrei cambiare un po' argomento, Deborah, perché io ieri sul Sole 24 Ore... Sì. Ah, guarda, se vuoi segnalare quella cosa lì, ti do anche un assist che c'è. Ho una domanda di un ascoltatore, quindi tu ti riguardi bene il pezzo, io intanto recupero l'osservazione di un amico che intanto ci striglia un po' perché non gli abbiamo ancora spiegato se tu sei parente delle Meazza dello stadio o meno, ma a parte questo, e adesso questo lo chiarirai tu direttamente con lui, ci chiede: ho sentito parlare di un'obbligazione di una grande banca italiana che è stata emessa da poco, non ho però capito se si tratta di una obbligazione destinata solo al pubblico degli investitori istituzionali o è anche per il retail. Questo sicuramente posso dirlo io: le grandi emissioni bancarie sono per il pubblico esclusivamente istituzionale, altrimenti si farebbero delle campagne di comunicazione molto puntuali. Questo è l'assist per te, dove vuoi andare a parare? Io voglio andare a parare con questa indicazione che ho letto sul Sole 24 Ore di ieri: corporate bond, cioè obbligazioni emesse dalle aziende, allarme dell'Ocse, troppi titoli spazzatura. È chiaro che tutti stiamo cercando dei rendimenti perché non ci sono più grandi rendimenti in giro, e allora l'obbligazione societaria sembra una buona indicazione. Però l'Ocse avvisa: attenzione, che c'è in giro anche tanta roba che poi potrebbe non essere così affidabile. Condivide questo allarme, Tentori? Di sicuro ci sono molte obbligazioni che hanno tagli molto piccoli, quindi il problema di liquidità rispetto a quello che il mercato azionario è evidente, e in questo caso il consiglio che, diciamo, gli operatori, ma anche noi di Axe Investment Managers diamo, è quello di utilizzare il fondo di investimento che accorpa la performance di tutte queste obbligazioni, diversificando attraverso tutto lo spettro investibile, piuttosto che andare a comprare un'obbligazione che magari sfortunatamente è proprio quella che per motivi svariati è sottoperforma. Perché il rischio è anche quello che poi diventino illiquidi, come si dice, cioè che quando uno cerca di uscire non viene remunerato o deve attendere tempi molto più lunghi di quanto preventivava, anche a volte di quanto gli era stato detto, per rientrare in possesso del suo capitale. Sì, la liquidità è un tema che abbiamo già ripreso, molto, molto importante, soprattutto ha una caratteristica peculiare la liquidità, cioè ce n'è tanta quando non serve, quando invece serve sparisce immediatamente, evapora. È un po' come gli ombrelli nelle giornate di pioggia. Ma sei un grande. Senti, vorrei così soddisfare la curiosità, per quanto sulla mia persona non mi sembra così importante. Diventato un uomo popolare. Purtroppo quindi... non sono parente del grande Peppino Meazza, che è appunto campione dell'Ambrosiana Inter, perché allora si era dovuto pure cambiare il nome, e campione anche con la nazionale del 34 e del 38. Ma per tutto questo, naturalmente, c'è Carlo Genta, che sicuramente sarà più dotto di me sul punto. Sai che, Deborah, sì? È il mio momento. Aspetta un attimo, cioè, cerca di resistere altri 30 secondi, perché volevo segnalare questo messaggio di un ascoltatore che ci ricorda, segnala che lavora nel settore orafo e che oltre a loro anche per Palladio e Rodio ci sono stati rincari vertiginosi, ma lui si è perso la nostra puntata che abbiamo fatto a Vicenza Oro, dove proprio di Palladio abbiamo parlato, segnalandolo proprio come una sorta di lega che viene utilizzata appunto per l'accorpamento di altri metalli. Me ne ricordo molto bene. E allora, grandi aumenti per queste materie prime, aumenti più contenuti per il PIL italiano 2019. Un bel po' più contenuti, direi. Vi abbiamo detto di quanto è aumentato il PIL italiano nell'intero 2019, adesso lo chiediamo a voi: chi, telefonando a 800240024, ci dirà la risposta esatta di quanto è aumentato nel 2019 il PIL italiano, allora si potrà aggiudicare una copia a gratis che gli mandiamo direttamente noi della nostra guida al risparmio per il 2020, realizzata dal Sole 24 Ore. Due di denari. Per quanto concerne la signora delle tende, evidentemente l'operatrice ha creato un mismatch, nel senso che perché ha chiesto se c'era anche il marito, perché ovviamente sono entrambi, li fanno decidere subito, li pongono la vendita nell'immediato, quindi forse non si sono compresi, ecco, non si è spiegata bene. Ho capito, ma ribadisco, questa signora è una single come la sottoscritta. Se io devo comprare delle tende, a chi mi vada a raccomandare? Al vicino di casa? Papà non ce l'ho più, ma che discorso è? Cioè, ma guarda che secondo me dovremmo continuare a parlare ancora a lungo di questa vicenda. Accontenteremo tutte le amiche che me l'hanno segnalata. Sì, poi oggi ne faccio una questione di genere pesante. Qualcuno ci chiede, fate il nome. Non abbiamo potuto avvertire l'azienda per dare modo esatto. all'azienda di spiegare, per di spiegare questo comportamento che effettivamente, come hanno colto molti dei nostri ascoltatori e molte delle nostre ascoltatrici, è difficile da interpretare. Devo, allora, abbiamo voluto salutare il nostro ascoltatore da Bangkok con una canzone ad Doc, che fa anche un po' rima, nella hai Giuseppe notato? Ferrero, sì. Però non è venerdì, non è il giorno del sonetto, ci sarà domani il Dai, sonetto. Ripeti la domanda. Devo ripetere la domanda del quiz. Non so se c'è lo stacchetto musicale. C'è. Prontamente accontentato. Dovete comporre 800240024 e rispondere a codesta domanda. Nell'intero 2019, di quanto è aumentato il PIL italiano? Chi risponde per primo correttamente si aggiudicherà una copia della nostra guida ai risparmi realizzata dal Sole 24 Ore proprio agli inizi del mese di febbraio, molto molto di recente. E adesso torniamo a investire in formati. Allora Alessandro Tentori, abbiamo visto naturalmente che il tema coronavirus ha avuto una ripercussione peraltro da non considerarsi forse neanche pesantissima sui mercati asiatici diretti interessati a questa emergenza sanitaria e barra sta diventando anche economica. Per il resto delle borse emergenti, dove si sono visti gli effetti più preoccupanti? E ritiene anche lei che nel caso in cui a breve si esca da questo tunnel, il picco passi e il numero delle persone contagiate continui ad essere inferiore appunto rispetto a quelle che guariscono, se l'economia dovesse ripartire una volta scavallata questa emergenza, ripartirà a bomba archiviando questo momento di paura in tempi rapidissimi, anzi forse cancellandolo veramente con grande vigore, e sarà anche interessante vedere insomma quella fase. I mercati al momento stanno scontando un profilo esattamente di rimbalzo, cioè un trimestre negativo, anche fortemente negativo in termini di PIL, di crescita, di attività economica. E poi dal secondo trimestre in poi bisognerebbe recuperare terreno. Faccio notare però che tante attività, tanti beni sono beni stagionali, cioè uno che si compra un piumino in inverno non se lo compra poi in agosto perché non se l'è comprato in inverno. Se io non vado al ristorante per un mese, non è che poi il prossimo mese vado due volte ogni giorno al ristorante, quindi non è proprio così, non è proprio vero che c'è questo processo di catch up dell'attività economica, soprattutto poi non c'è trasparenza per quanto durerà questa cosa, quindi è possibile che si abbia uno spillover, perché questo rallentamento economico continui anche nel secondo trimestre, questo non lo sappiamo al momento, però i mercati decisamente hanno una lettura molto ottimistica, dicono finito il primo trimestre, si riparte e grazie allo stimolo economico e finanziario delle banche centrali, inclusa la banca centrale cinese, sarà solamente una cosa da ricordare nel libro. Certo, quali aree emergenti si sono mosse in maniera particolarmente vistosa in queste settimane, in negativo ma anche in positivo, quali hanno continuato a procedere senza tante preoccupazioni rispetto a questa situazione? Sicuramente tutto quello che è legato alla catena del valore cinese, quindi la Corea, il Vietnam, però anche, e qua forse la news negativa per l'Europa, si parla di vendite in calo per grosse imprese tedesche, sia di prodotti sportivi come anche automobili. Quindi secondo me la vicinanza geografica non è più un fattore di lettura per le forecast economiche come era una volta, perché ormai le merci in questo mondo iperglobalizzato viaggiano 24 ore su 24 indipendentemente dalla distanza. Infatti questo coronavirus, l'hanno detto già in diversi, è stato un po' quasi la dimostrazione sul campo di quanto l'economia, il risparmio, gli investimenti, le attività comunque umane siano fortemente interconnesse in grande parte di tutto il pianeta. Ma io vorrei introdurre una sorta di piccolo cigno nero della trasmissione, Deborah, nel senso, questa fase un po' delicata anche appunto data dal coronavirus potrebbe rilanciare il monito sempre portato specialmente dalla BCE: fate qualcosa con le politiche fiscali per sostenere le attività produttive, per sostenere i consumi. Ce l'ha detto Draghi diverse volte, l'ha ripetuto Lagarde. Voi ci credete come operatori che ci saranno degli stimoli fiscali molto forti? Abbiamo visto quelli di Trump in Europa, però diciamo che nessuno ha tanta voglia di tagliare ulteriormente le imposte, o almeno così pare. Sì, Draghi l'ha detto non diverse volte, l'ha detto una volta al mese per 8 anni, cioè, sì, ce l'ha ripetuto in tutte le salse. Ha ragione. E su questo ha assolutamente ragione, perché come ragionavamo prima, la politica monetaria ha una durata forse di 2 anni, 3 anni, per andare a impattare le vere problematiche, e qui mi riferisco in particolare all'Italia, però questo è valido anche per altri paesi, e cioè la crescita, l'impiego di risorse in maniera strutturale. Bisogna intervenire a livello di politica fiscale, a livello di politica più in generale, politica economica più in generale, e soprattutto con delle riforme. Se noi guardiamo un paese come la Germania cresce allo stesso livello potenziale di 20 anni fa, perché ha fatto riforme all'inizio degli anni 2000. Tutti gli altri paesi in Europa che non hanno fatto queste riforme sono molto più suscettibili, molto più passibili al rallentamento del ciclo economico globale. E anche la Germania, peraltro, è uno di quei paesi che ritiene di avere necessità di una revisione della tassazione al ribasso, cioè di ridurre la pressione. Sostanzialmente Italia, Germania e Francia sono accomunate da questa esigenza che sorge molto chiara da parte delle categorie produttive e degli stessi cittadini, ovviamente, ma fatica a trovare poi una sponda nelle decisioni dei governi e dei parlamenti. Forse storicamente in Europa c'è stato troppo focus, siamo stati troppo concentrati in termini di politica economica sulla svalutazione, sull'utilizzo del cambio come modo per smussare gli angoli del ciclo economico, cosa che si fece negli anni 90 in Francia, in Italia, in Inghilterra. Politica che adesso ormai non è più perseguibile. Però mi sembra di capire che voi operatori non confidate su riforme fiscali da shock nel breve periodo. Di sicuro in Germania non c'è il volere politico di effettuare interventi a livello di politica fiscale cosiddetti discrezionari, cioè che vanno oltre quello che è preventivabile all'interno del Fiscal Compact. Finanza comportamentale, educazione finanziaria. Un ascoltatore scrive: scusate, se io voglio comprare un'obbligazione, non voglio comprare un fondo. La risposta a tutte le domande che vi arrivano è sempre la stessa: comprate un fondo. Questi non sono consigli. Mi tocca fare l'editoriale. Noi quello che invitiamo a fare è: non comprate un fondo, ma comprate diversificazione. Per cui, se lei vuole investire tutti i suoi risparmi in un unico strumento, sono affari suoi. Se lei ne è consapevole, sappia che si assume tutti i rischi di fare una scelta di questo tipo, quello di mettere tutte le uova nello stesso paniere. Se il paniere casca, si rompono tutte le uova. L'abbiamo visto con la risoluzione delle banche nel nostro paese, per cui il punto è questo: non comprare un fondo, ma diversificare il proprio risparmio. Non so più in che lingua dobbiamo dirlo. Se poi lei vuole comprarsi una pletora di obbligazioni e su ogni compravendita, ogni sottoscrizione ci paga naturalmente qualcosa, e tutto questo per evitare di pagare le commissioni su un fondo, sono scelte sue. L'importante è che siano scelte consapevoli e comprese fin dall'inizio. Naturalmente poi questo richiamo che facciamo è anche per ricordare sempre a noi stessi in primo luogo che la, per così dire, rischiosità, il tasso di rischio dei vari prodotti finanziari è diverso, quindi se uno va verso prodotti gestiti dovrebbe prevedibilmente abbassare un po' il tasso di rischio. Non è garantito, ma è possibile. 7 secondi di tempo per la risposta al domandone. Lorenzo da Bergamo, il PIL italiano? È cresciuto dello 0,20. Bravissimo! Grazie. Telegrafico, rapido ed efficace. Le arriva il cadeau dell'anno, oserei dire. Da Bergamo dire. È stato veramente come l'Atalanta ieri sera. Ieri sera, grandissima. Grazie ad Alessandro Tentori, alla prossima. Grazie a voi, buona giornata. E noi ci vediamo domani a Verona. Io parto stasera, sì, tu vieni domattina. Arrivo. Dai, su, muoviti, che là è caldo, te lo dico già.